Fulvio. Mamma di turchi. Oh, oh, oh, oh. Ora. Chi è avanti? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno. Ora. Adesso? Prova a fare il passaggio lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. Sì, adesso sì. Meglio così, adesso già va meglio. Cosa c'avevi? Cosa c'avevi usato? Il microfono normale del tenuto, solo che era come l'acceso a più di 50. C'è un caldo qua dentro, cazzo, che i coperti sono tipidi. Signori, io sto morendo, ma comunque ieri c'era più caldo. Come è, sta facendo un po' di venticello, già è ora. Infatti adesso non esco, fra poco, ma vado a prendere un po' d'aria, cazzo, non si bussa in casa. Fai bene almeno, prendi un po' l'aria fresca. Sai cosa mi ha fatto l'aria condizionata? Mi ha crepato. Mi ha preso la gola, al naso, raffreddore, mal d'orecchio, ui. L'aria condizionata è così, caro mio. È bella, bella. Però poi ti sei fottuto. E cosa fai? Crepi di caldo? Non è che me l'ho puntata addosso, l'ho messa e via. Io facevo altre cose e l'aria continuava a andare, ma poi come sono entrato in sala, ui, ma che basta. Beh, già lo credo, vedete, già l'ho fatto. Poi io mi sono mal di petto, sono, e infatti il ventilatore non lo sto neanche usando. E quindi la pressione, oh. Non so se c'è la pressione. Non ho mangiato niente, tu figurati. Quello è peggio, che sta fischiando, va? Chi è che fischia? Oh, frusciare dopo noi. E qualcuno che magari poteva fare un uccellino. Ma scagliolo non ne abbiamo. Allora, mi ha dato un ricevitore digitale terrestre, cazzo c'è l'attacco, questo HDMI, grazie. Ci sono 16 fili, cazzo, un bel troiaio per me. A sapere come vanno messi, ci vuole un HMD uguale e poi si andate i fili uno a uno, nulla nulla, cazzo. È un attacco particolare qui. E infatti, adesso mi tocca, secondo me ci metto la parola scarpa e faccio prima. Cerco i fili a uno a uno, se sono fortunato, li saldo a uno a uno, vediamo cosa succede con il televisore. Se è vero che si vede l'immagine e c'è l'audio, sono a posto. C'è 16 fili, Ma dice che fusano, è diventato GBC. Oh, non lo so se avete diventato GBC. Ho visto che ha cambiato l'insegna. E ha messo quella della GBC, vuol dire che è GBC. Io vuol dire che si sarà comprato. Beh, ma l'ho visto lavorando a Torino. L'altro giorno. Che piace? Sta lavorando. Sta lavorando, Mi aprirà un altro, cosa vuoi che ci dica? Quattolina di sgruccio, non mi la vado di bimbo, ma dai. Vabbè, quello è vero già, non è che si è messo bene, no? È stanco, sempre stanco, poveraccio. Ui. Un casino, mi sciolgo, ma che si può entrare. Sì, magari. Vede se leva in pensione, ci dirà tutto, ci vorranno solo 6 mesi che ha per pulire tutto quello cane, se dovesse comprarlo fusato. Poi la roba è tutta catalogata, eccetera, eccetera, e io ya. Cosa vedo? Almeno giù da Fusaro ci sembra di roba. Basta che ci sono gli scaffali, giù ci sono. Non fanno altro che mettere la roba giù e capito? E fanno prima, e se no, cazzo. Vabbè, comprate le tue, dice, ormai non ne fa arrivare né uno né l'altro, quindi vende solamente roba, come la vede Torino, blu. Vabbè, se si trovano le bolle, quei pacchi chiusi sanno che cosa c'è, ma le bolle lo sanno cosa c'è. È la roba scusa, più che altro da contare, da fare, lui, da casino. Sono tutti aperti sono i pacchi, poi c'è una montagna dietro a quella specie di cosa, appena entri. Non hai visto dietro che c'è una montagna, lui ci passa sopra, ci passa. La barra di ricevitori da buttare, di tutto, lampade, c'era. Quindi ci passava sopra Torino. E i capi, che li gai, a chi è tutto bio di roba? Se sempre poco a poco ti fai male davvero, ci sei attaccato ai, come si chiama, agli scaffali quelli verdi. E lui non ce l'ha più fatto da quando c'era quel ragazzo che c'era prima, lo aiutava, anche se a me non mi era molto simpatico, ripeto, non mi era mai stato simpatico quel ragazzo. Sì, vabbè, ma se voleva lavorare, cioè se si chiamasse il coso, bastava se pigliasse una persona, lì, e ogni giorno lui si mette a bancone, Torino e l'altro prende e comincia a riempire i sacchi della mondezza, la parte tutto, come si chiama, lì fa arrivare quella fare in ferro che i tavoli e comincia a riempirlo e quindi fa pulizia nel mentre. Ma roba vecchia non penso che ce ne sia, roba che è fusa. Non lo so cosa diavolo ci sia dietro, non ci ho mai guardato, no, per carità. Quindi comunque sai che si arriva sopra la montagnetta, cazzo, dove cavolo sta andando questo? Poi sta metterci la tua sacco di roba, non lo vedi nemmeno in mezzo alle scatole dietro. Ma io ti lascio che devo andare, è un appuntamento, e me ne vado in giro, dai. Ci sentiamo, fammi bene, ciao ciao. Ehi, ciao, ci sentiamo Gianni, buona passeggiata, buon tutto e buon divertimento, buon fresco, adesso sta rinfrescando l'aria. Ehi, ciao ciao. Ehi, ciao ciao. C'è qualcuno ancora vivo?